Nel video di lunedì scorso abbiamo cercato di capire come mai lamentarci ci piace così tanto e soprattutto spero che abbiamo capito che lamento e irritazione sono due cose che non si annullano a vicenda, anzi si alimentano. Più sono irritato e più mi lamento, ma più mi lamento e più la mia attenzione si focalizzerà su ciò che mi sta irritando e quindi mi irriterò ancora di più. Jeff Bezos, fondatore di Amazon, è famoso per una sua frase: lamentarsi non è mai una strategia. Vediamo allora queste 7 strategie alternative al lamento. Primo, cerca di essere consapevole di tutte le volte che ti lamenti e prova a fare un inventario dei tuoi lamenti preferiti e siine più consapevole, perché molto spesso i grandi cambiamenti nascono da un piccolo atto di consapevolezza. Quindi focalizza la tua attenzione, prova a vederti, a guardarti, a videoregistrarti mentre ti lamenti del coniuge, del capo, del collega, dell'amico, del parroco, del vescovo, dei figli. Prova a guardarti mentre ti lamenti e prova a pensare: ma sono orgoglioso di me nel momento in cui mi lamento? Davvero sto facendo qualcosa che aggiunge qualità, valore alla mia vita? Secondo, riguarda la registrazione mentale di te mentre ti stai lamentando, ma questa volta focalizzati sulla persona di fronte a te. Che cosa sta pensando? Forse qualcosa del tipo: wow, che bello, finalmente posso ascoltare nuovamente la sua tiritera preferita di mugugni. Se fatichi ad immaginare, eccoti un aiutino. Prova ad immaginare cosa pensi tu nel momento in cui ti viene incontro quella persona che sai che sicuramente inizierà a lamentarsi di qualcosa. Terzo, la prossima volta che senti salire insopprimibile il bisogno di lamentarti, prova semplicemente a non farlo. Morditi la lingua, tappati la bocca, datti uno schiaffo, scegli di non lamentarti, scegli di fare qualcosa di diverso. Se ci riesci, sperimenta dentro di te quello che accadrà nel momento in cui sarai riuscito a non lamentarti e senti anche l'intimo sollievo attraverso questa scelta di aver reso il mondo un posto migliore, meno noioso, più degno di essere vissuto e abitato con fierezza e con il sorriso sulle labbra. Ci sono comunque cose per le quali, nonostante tutto questo, sentirai ancora il bisogno di lamentarti. E allora, adesso andiamo un po' più in profondità. Prova a dividere le cose per le quali abitualmente ti lamenti in 3 categorie. Innanzitutto le cose per le quali tu non hai nessun potere, le cose che assolutamente non dipendono da te. E poi le cose che magari dipendono da persone che interagiscono con te. E infine le cose che dipendono principalmente da te. Focalizzati innanzitutto sulle cose che non dipendono da te in nessun modo. Uffa! Anche stavolta l'autobus è arrivato in ritardo. Mi è spuntato un altro capello bianco. Piove, governo ladro. E ora chiediti, visto che queste cose in nessun modo dipendono da te, ha senso continuare a lamentarti, a irritarti, a preoccuparti per cose che, per quanto ti lamenti, non si sposteranno mai neanche di un millimetro? Spesso la nostra infelicità deriva proprio dal bisogno di voler giudicare tutto e tutti, con la conseguenza che saremmo perennemente insoddisfatti. Se provassimo ad accettare con serenità che non viviamo in un mondo perfetto, credo che sarebbe già un bel passo per ritrovare più serenità e più felicità. C'è poi la seconda categoria di cose, quelle che dipendono in parte da te, ma in parte anche da persone accanto a te. Anche di queste non devi proprio lamentarti, per carità. Se vuoi continuare a lamentarti, fallo pure, non c'è problema. Ma il problema è sempre quello. Lamentarsi in continuazione provoca qualche cambiamento oppure fa soltanto crescere la nostra frustrazione ed insoddisfazione? Che ne so, sul lavoro le cose proprio non vanno a causa di quel collega? non devo proprio mai lamentarmi, devo proprio sempre tacere riguardo a questa situazione? Credo che sia possibile esprimere il proprio pensiero in un modo differente, in un modo non lamentoso, in un modo più dignitoso, sia per noi sia per le persone che ci stanno ascoltando. Quindi, invece di lamentarti, prova ad agire. Ad esempio, immagina di aver ricevuto dal tuo capo un'incombenza piuttosto gravosa anche a motivo del fatto che il tuo collega è stato noncurante su un'altra cosa. Dentro di te salirà il bisogno di lamentarti e quindi magari lo farai di fronte a un tuo collega con parole di questo tipo. Accidenti, oggi mi tocca anche fare questo lavoro oltre a quello che spetterebbe a me. È tutto perché Pancrazio, come al solito, non ha fatto il suo dovere. Uffa! In alternativa potresti andare proprio da Pancrazio e dirgli qualcosa di questo tipo. Ascolta, oggi il direttore mi ha chiamato e mi ha detto che dovrei fare questa cosa entro domani perché tu non sei riuscito a farla. Anche la settimana scorsa è accaduta una cosa analoga e per me è stato un po' un disagio perché mi sono dovuto fermare oltre all'orario solito di lavoro. Tu pensi proprio di non farcela entro domani? Ho una mezz'oretta libera, se vuoi guardiamo insieme come possiamo organizzare meglio il lavoro. Ok, magari pensando al tuo ambiente di lavoro ti sembrerà che questa cosa sia completamente inapplicabile, ma il concetto però è: prova a trovare un modo diverso, alternativo di esprimere i tuoi bisogni. Invece che lamentarti, prova a chiedere in un modo più dignitoso, meno lamentoso, un modo più fruttuoso sia per te sia per le persone accanto a te. Infine ci sono le cose che dipendono soltanto da te. Non sei in forma come vorresti, non sei riuscito a fare quella cosa, non riesci mai ad avere tempo per te stesso o per te stessa. Beh, credo che ci siamo già capiti. Ogni volta che ti viene voglia di lamentarti per una cosa che in fondo dipende da te, prova a prendere una piccola decisione e soprattutto prova subito a fare un piccolo passo in direzione di quella cosa che vorresti ottenere. Nonostante tutte queste strategie, a volte proprio il mugugno è una tua esigenza insopprimibile, sappi che un'ultima alternativa c'è, una splendida alternativa. Guardati intorno. Voglio dire, la vita può essere meravigliosa, oppure può essere orribile, oppure una via di mezzo. Ci saranno sempre cose per le quali possiamo scegliere di lamentarci. La scelta spetta a te. Su che cosa scegli di mettere la tua attenzione? Su che cosa scegli di focalizzarti? Ci sono cose per le quali è impossibile essere grati. Ma in ogni momento credo che ci sia sempre qualcosa per la quale possiamo davvero essere grati. Scegli di essere grato per quella piccola cosa per la quale puoi dire grazie. Ok, visto che sei arrivato fin qui, almeno un piccolo mi piace mettilo e condividi questo video con i tuoi amici. Altrimenti mi metto a mugugnare e guarda che non la finisco più.